Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Noi ripartiamo dal neo presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, di fatto al suo sesto giorno di scuola, naturalmente da presidente della Commissione europea, per l'ex primo ministro del Lussemburgo, e subito arriva un problema. In particolare la questione riguarda il suo paese, il Lussemburgo dunque, e le sue pratiche fiscali. Ma sentiamo tutto nel servizio di Beda Romano. Il neo presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è sotto immensa pressione politica dopo che una serie di giornali ha pubblicato documenti riservati dai quali emerge che il Lussemburgo negli ultimi 10 anni ha concesso generosi accordi fiscali a centinaia di multinazionali. Secondo l'indagine condotta dal Consorzio Internazionale di Giornalisti d'Inchiesta, un organismo con sede negli Stati Uniti, il Granducato avrebbe firmato oltre 500 intese fiscali con più di 340 società. Ai tempi Juncker era primo ministro lussemburghese. In alcuni casi il reddito trasferito dalle imprese nel Lussemburgo sarebbe stato tassato con aliquote inferiori addirittura all'1%. Interpellata stamani, la Commissione europea ha ricordato le indagini ai danni del Lussemburgo in campo fiscale e ha assicurato che intende continuare a far rispettare le regole sugli aiuti di Stato, l'unica arma a sua disposizione in un settore, quello fiscale, che rimane competenza nazionale. Il portavoce dell'esecutivo comunitario Margaritis Skiras ha insistito per porre la questione in termini di politiche comunitarie, evitando domande sulle responsabilità personali di Juncker. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Ecco dunque che a pochissimi giorni dall'insediamento c'è già una questione molto spinosa, naturalmente diversi commenti. Vi cito forse la più rapida a chiedere le dimissioni del neo presidente della Commissione europea, è Marine Le Pen, leader del Fronte Nazionale, naturalmente accanita anti-europeista, che dice in una nota: di fronte a questo scandalo internazionale che pone problemi etici, morali e politici, il Fronte Nazionale chiede le dimissioni di Juncker. E a proposito di parlamentari molto in vista, una nota invece del Movimento 5 Stelle ci informa che il leader del Movimento, Beppe Grillo, mercoledì prossimo sarà in Parlamento europeo, a Bruxelles, nella sede di Bruxelles, in coincidenza con la cosiddetta mini plenaria, da dove nella sala delle riunioni del gruppo euroscettico EFDD lancerà la campagna per la raccolta di firme per il referendum anti-euro. Parliamo invece di politiche, di grandi trattati e dei dibattiti in corso tra commissioni e organizzazioni internazionali, in questo caso direttamente con gli Stati Uniti. Quindi sarà Paolo De Castro, il referente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, per i negoziati sul libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti attualmente in corso. Il trattato potrà diventare una grande occasione per il riconoscimento e la tutela dei nostri marchi di qualità, sottolinea De Castro al microfono di Maria Luisa Pezzali. C'è dubbio che il negoziato commerciale può rappresentare anche in materia di tutela dei nostri marchi una occasione importante. Ricordiamo che l'accordo commerciale con il Canada, che si è appena concluso dopo anni di negoziato, ha avuto il grande merito di un riconoscimento di oltre 150 denominazioni d'origine. Se oggi il nostro prosciutto di Parma può entrare nel mercato canadese senza cambiare marchio, come ahimè e succedeva negli anni scorsi, questo lo dobbiamo all'accordo commerciale con Canada. Quindi assolutamente, anche per il riconoscimento e la tutela dei nostri marchi, i negoziati commerciali sono l'unica strada possibile, perché se no gli americani non sono obbligati a rispettare le regole europee, loro rispettano le loro regole. Quindi se noi vogliamo la tutela dei nostri formaggi, dei nostri vini, abbiamo bisogno che nell'accordo commerciale ci sia un'attenzione a un riconoscimento reciproco, e naturalmente questo lo dobbiamo fare con molta attenzione. Bene, con questo è tutto per Europa 24, l'appuntamento naturalmente domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.